abbiamo in collegamento oltre che Pink. Buonasera. Ciao ciao, rieccomi. Abbiamo in collegamento un compagno e una compagna dagli Stati Uniti, esattamente da Santa Barbara. Si tratta di Belka e Strelka. Buonasera. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Ciao, buonasera e grazie per essere ai microfoni con noi. Ci serve sicuramente il vostro punto di vista di persone che abitano negli Stati Uniti, perché non è per niente chiara, o quantomeno quello che ci arriva è abbastanza confusionario. Si parla naturalmente della situazione scaturita dall'uccisione il 25 maggio da parte della polizia nella città di Minneapolis, dal quale poi sono scaturite tutte delle proteste in praticamente tutti gli Stati Uniti. Moltissime città vedono addirittura il coprifuoco, però diciamo, intanto quello che chiediamo a voi è di chiarire il contesto, visto che arriviamo, o meglio, forse arrivate da un'emergenza sanitaria gestita in un modo un po' caotico, che si è innestata in un paese, in uno stato, con già dei problemi molto grossi e con un sistema sanitario pressoché inesistente, quantomeno quello pubblico, e quindi a volte sembra anche da quello che ne viene fuori, dalle proteste che ne sono venute fuori, dalle rivolte, da anche i singoli fatti, sembra che si vada ben al di là di una protesta per l'ennesima uccisione da parte della polizia di una persona afroamericana. Sì, quando ho iniziata, diciamo, la pandemia, quello che si diceva un po' all'epoca, e che penso fosse una buona analisi, è che tanti problemi che erano latenti o non latenti, però irrisolti della società americana, si erano un attimino tutti intrecciati in un'unica grande problema in cui ognuno si sosteneva a vicenda. E appunto tu hai citato i problemi del diritto alla salute, all'assistenza sanitaria, ma anche i problemi di il diritto alla casa e il costo degli affitti, e così come il problema dei senza tetto. E questa situazione, diciamo, aveva un attimino legato tutte queste cose insieme, giusto per dire, non esiste, cioè, le assicurazioni sanitarie private, che sono quelle che la maggior parte della gente ha, sono legate al posto di lavoro. Quindi nel momento in cui uno perde il posto di lavoro, perde anche l'assistenza sanitaria, non può più permettersi di pagare la casa, e quindi chiaramente nel momento in cui stimati un 40 milioni di persone negli ultimi 3 mesi hanno perso la loro fonte di reddito, e chiaramente questo ha delle ripercussioni su tutto il resto. Ecco, sì, prego, Pink. Agli zoppi grucciate, non mi veniva da dire. Quindi in realtà questa situazione, da un punto di vista sanitario e non solo sanitario, appunto, in che porzione riguarda quali categorie della società? Cioè, ovvero, abbiamo visto chiaramente un problema emerso, grosso, di razzismo e di classe, che riguarda soprattutto le persone afroamericane. Ma immagino non sarà solo lì il punto, cioè in che proporzione poi in realtà questa serie di problemi che hai citato, e che chiaramente sono venuti a galla maggiormente durante la pandemia, maggiormente o non so, in che proporzione riguarda le persone afroamericane e in che proporzione invece no, altre categorie magari sociali della società statunitense, ammesso che si possa generalizzare ovviamente. Guarda, noi, vabbè, ti parliamo dalla California del Sud, quindi un posto che ha una composizione, come dicono qui, razziale, che è diversa da altre realtà statunitensi, per cui noi comunque ti parliamo da una zona dove la popolazione nera costituisce una percentuale relativamente piccola, e invece la popolazione latina costituisce una proporzione molto molto grande. dove però in termini di assistenza sanitaria non sembra che ci siano queste grandi differenze tra gruppi razziali diversi. Io adesso ti farò questo esempio che c'è cioè, nel mio mondo piccolino, io sto in università nel senso la composizione all'interno delle università chiaramente vede i bianchi, gli internazionali essere molto più presenti, diciamo, tra i dottorandi, i professori rispetto a altre etnicità e razze. Nel momento in cui c'è stato un grande sciopero dei dottorandi, l'università ha minacciato di licenziarsi, comunque di licenziarci anche gente che normalmente non ti immagineresti di trovare in mezzo a una strada o senza assicurazione sanitaria, ci si è ritrovata. Per cui c'è una, diciamo, ci sono delle disparità razziali, ma comunque più del 50% della popolazione di questo paese, è a un mese di distanza dal vivere per strada. Questo include gli internazionali, questo include chiunque non abbia accesso a dei lavori estremamente pagati, che non lavora nel tech, nel caso della California, che non lavora al governo. Poi chiaramente in termini invece di accesso alle case, gentrificazione dei quartieri, sicuramente i quartieri latini e i quartieri neri e anche i quartieri asiatici sono quelli che hanno subito in maniera disproporzionata lo sfratto dei coinquilini, degli inquilini attuali per far posto invece alla marea bianca hipster che si allarga in queste città, la marea di chi lavora all'interno delle aziende tecnologiche, però diciamo questa possibilità molto reale che da un giorno all'altro succede qualcosa, perdi il lavoro, perdi la casa, sei in mezzo a una strada, c'è cioè una cosa che viviamo quotidianamente anche noi che siamo bianchi, che siamo all'interno di settori dove siamo relativamente poco sostituibili perché facciamo parte di quella categoria della gente con le cosiddette non replaceable skills. Ecco, facevi giustamente, mettevi in evidenza la differenza che ci può essere tra un posto come Santa Barbara, dove abitate, o Los Angeles e le altre città e gli altri stati. Quindi immagino che tutte queste differenze ci siano, sia appunto magari ci siano state sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista nella questione dell'abitare e via discorrendo. Però le rivolte sono scoppiate in pressoché tutti gli stati americani, quindi c'è anche un vissuto comune. Qual è questo vissuto comune? Quello della povertà o quello della violenza poliziesca? Beh, sicuramente tutte e due, nel senso c'è una. Se ci sono delle differenze che comunque si intrecciano con le differenze di classe, per cui diciamo sicuramente l'esperienza di afroamericani come i giocatori di basket ricchi e i legionisti della TV non è la stessa esperienza degli afroamericani che vivono nei quartieri poveri di Los Angeles. C'è un problema di base di violenza della polizia, e, cioè una base di razzismo generale, però la polizia secondo me è particolarmente visibile questa cosa qua, perché comunque c'è un continuo susseguirsi di eventi che, diciamo, se uno li guarda singolarmente, ognuno potrebbe sembrare un accidente, ma poi ti rendi conto che ne succede uno al mese e quindi non è più un accidente. Di polizie che comunque di fronte a dei corpi neri non perdono il mezzo secondo per escalare la loro azione da un'azione di andare a informarsi, chiedere cosa sta succedendo, a tirare fuori le pistole e iniziare a sparare. E ci sono i casi più eclatanti che sono quelli che sono finiti in video, che ovviamente nel senso vedere il video di una persona che muore è sempre molto, cioè, tocca molto l'emotività. Però ci sono dei casi che cioè, oggettivamente sono, secondo me, cioè, non, fa, fa, creano rabbia per il modo in cui si sono svolti. Nel senso, negli stessi giorni in cui si è protestata la morte di George Floyd, sono successi altri casi, uno in Kentucky, di la polizia che è andata a fare una specie di perquisizione a una casa di privati. e loro hanno questa possibilità di fare una perquisizione senza avvisarti. Quindi loro praticamente di notte sono entrati armati, hanno fatto irruzione in una casa senza avvisare e hanno iniziato a sparare. E una ragazza afroamericana che stava dormendo praticamente muore. E in casa non trovano nulla. E questo non è il comportamento che loro fanno in generale, questo è un comportamento che loro hanno quando si tratta di persone che loro sanno di poter trattare in questo modo senza conseguenza, perché le conseguenze che hanno i membri della polizia a seguito di queste azioni sono veramente minime. E adesso, diciamo, dopo tanti anni si sta iniziando ad avere casi in cui la polizia effettivamente viene licenziata, effettivamente viene condannata, ma queste sono gocce in un mare di omertà. E anche adesso la morte di George Floyd, una delle richieste che vengono fatte in piazza è che il poliziotto che ha oggettivamente ucciso George Floyd è stato accusato di omicidio, tra l'altro non, cioè tipo omicidio di terzo grado, quindi tipo preterintenzionale. E le persone che erano presenti con lui, altri agenti che hanno registrato il video e che erano lì davanti a lui mentre succedeva la cosa, no, cioè questa è un'altra delle richieste. Ecco, raccontateci un po', che cosa sono stati questi giorni. Dal 25 maggio, il giorno dell'uccisione di George Floyd, è passata più di una settimana. Abbiamo visto manifestazioni pressoché quotidiane, a quanto ho capito anche spontanee, però magari voi potete spiegarlo con maggior precisione, come si è allargata, questa protesta. Senti, sì, la partecipazione è veramente qualcosa di storico, cioè secondo me non ci sono migliori parole. E ci sono state proteste in praticamente qualsiasi città degli Stati Uniti, in città grandi sono state proteste multiple, una presenza di piazza molto molto grande per questo paese che comunque non è abituato ad avere manifestazioni di piazza di queste dimensioni, di questo tipo spesso. A Los Angeles un pochino stanno tutti quanti con questa paranoia, tra virgolette, il confronto con il passato, perché Los Angeles è una città che ha questa storia di riot dovuti a problemi di razzismo. Che insomma, praticamente ce n'è uno per generazione, ecco, cioè, nel senso la gente fa il confronto con i riot del 92 per la morte Rodney di King. Rodney King, però ci sono stati dei riot nel 65 nel quartiere di Watts, però ci sono stati dei riot anche nel 43, cioè nel senso c'è tutta una storia con cui uno si riesce a diciamo, un po' avere questa prospettiva. Ovviamente quelli di oggi non sono gli stessi di 30 anni fa, cioè sono delle differenze grosse e devo essere onesto, cioè si vede una partecipazione veramente ampia della società in queste proteste. Cioè non sono soltanto gli afroamericani che sono scesi in piazza, sono anche i latino, sono anche le comunità bianche, sono anche le organizzazioni di sinistra, sono anche e le chiese, le organizzazioni religiose che stanno protestando sono assolutamente trasversali e comunque quello che abbiamo visto nell'ultima settimana è stato tipo la collezione di gli abusi della polizia, cioè la polizia degli Stati Uniti, che è un sistema anche questo qui, a volte è difficile da spiegare, è molto poco omogeneo rispetto a come siamo abituati noi in Europa, cioè le polizie delle varie città sono più o meno strutture indipendenti di loro, per cui oggi a Los Angeles in piazza ci sono sia la polizia di Los Angeles che polizie chiamate da città vicine, che la Guardia Nazionale, che è praticamente una struttura militare di riserva che è stata chiamata per controllare la cosa. E tutti, cioè, si stanno comportando un po', diciamo, a giustificare queste proteste, cioè stanno facendo vedere che il loro modo di interagire con la popolazione è un modo estremamente autoritario, è un modo estremamente abusivo, e loro hanno tutti questi giocattoli militari che gli hanno dato a poco prezzo dall'esercito, e quindi adesso abbiamo visto per strada a Los Angeles i carri armati, praticamente c'erano i carri armati blindati e tutto il resto. Ecco, si può dire che c'è una grossa componente di molto giovani, di giovanissimi nelle proteste? Ah, sì, sicuramente questo è un po', cioè, lavorando appunto in università con gli studenti c'è una differenza molto grossa tra le generazioni, diciamo, più giovani e quelle più anziane in questo paese, cioè c'è un distacco tra chi oggi appunto ha 18-20 anni, i suoi genitori, i suoi nonni, per cui sì, nel senso le generazioni giovanissime sono in piazza a fare una serie di cose che appunto ancora forse non dall'Italia o dall'Europa sembrano strane, però c'è questo concetto qui di utilizzare il tuo privilegio bianco per difendere appunto le altre comunità, per cui sono, se vedete questi video, queste foto di ragazze giovani bianche che si mettono tra la polizia e i manifestanti neri, questo è un tipo di attivismo che appunto adesso tra le nuove generazioni ha preso piede, per cui appunto cioè, basta mettere veramente una persona bianca tra il gruppo di neri che protesta pacificamente e la polizia per evitare che questa gente venga manganellata come in una macelleria. E quindi diciamo questi giovani si sono un po' assunti questo tipo di compito. Le generazioni più giovani nere e latine invece sono, diciamo, radicalizzate, lo sono sempre state, e anche all'interno delle università, appunto, gli studenti neri, gli studenti latini sono quelli che, diciamo, un po' fanno trainano l'attivismo studentesco, per esempio. Io avevo in realtà penso 350.000 domande, ma capisco che non possiamo proprio rapirvi per tutto il giorno, quindi mi limito. Però, per esempio, due cose che mi vengono in mente subito al volo da chiedervi erano innanzitutto il ruolo dei gruppi, a me viene da chiamarli paramilitari, ma vabbè, magari è un gergo erroneo in questo contesto, però i gruppi di suprematisti bianchi o comunque i gruppi armati di bianchi che abbiamo visto ogni tanto nei video, alla televisione o così, insomma, nelle loro prodezze, che ruolo hanno avuto, che peso hanno sia nel contesto, insomma, e quindi nella preparazione a tutto ciò e adesso anche durante i momenti di piazza e le rivolte. E poi l'altra cosa che vi volevo chiedere, e forse in parte connessa, è: ma secondo voi cosa è successo? Nel senso, che peso ha avuto, per esempio, la politica esasperata di Trump, che chiaramente non è che è calata dall'alto, come boh, così arrivata dal niente, ma sappiamo perfettamente, insomma, essere la fine di una serie di cose che già esistevano, di un contesto che già esisteva. Però, di base, che cosa ha, insomma, quanto ha inciso appunto l'esasperazione della politica di Trump e quanto invece magari forse semplicemente la misura era colma e basta a prescindere, quanto invece magari ha pesato la pandemia e insomma, la gestione anche della pandemia diversificata, a seconda delle classi e degli strati sociali della popolazione. Guarda, allora inizio a rispondere alla tua prima domanda rispetto al ruolo dei gruppi di suprematisti bianchi e lo faccio collegandomi a questo famoso tweet di Trump in cui lui minaccia di mettere fuori, di designare Antifa come organizzazione terrorista, che penso che in Italia ho visto, mi sembra una cosa che abbia fatto molto scalpore, cioè questa cosa. E come tutte le cose che dice Trump, non si capisce bene lui cosa voglia dire ed è un po'. Parte perché, e secondo me questa è una questione molto interessante a livello storico, negli Stati Uniti non esiste nessuna legge o norma che prevede l'esistenza di gruppi terroristici locali. Cioè, tutto il terrorismo negli Stati Uniti, tutte le leggi sul terrorismo sono scritte solo in termini di terroristi esteri, cioè di gruppi stranieri. Il motivo storico di questa cosa qua, o almeno io penso che sia questo il motivo storico, mi sento di dare questa interpretazione, è che storicamente i gruppi terroristici degli Stati Uniti sono gruppi di estrema destra, di suprematisti bianchi. Cioè il Ku Klux Klan, con la terminologia moderna, lo chiameremmo un gruppo terrorista di fatto, per certi tipi di azioni che hanno fatto. I suprematisti bianchi sono gente che va in giro armata, coi mitra, minacciando la guerra civile. E poche settimane fa, per esempio, in uno delle, non so, adesso non ricordo in quale stato, loro sono andati per protestare contro le restrizioni per la pandemia e hanno interrotto l'assemblea dello stato, quindi insomma il parlamento dello stato, di uno di questi stati del Midwest, e hanno, cioè, sono entrati armati nella sede del parlamento dello stato e hanno interrotto i lavori. La reazione della polizia davanti a questo evento è stato di trattarli coi guanti bianchi, cioè è stato di gentilmente chiedergli di andarsene. Perché storicamente c'è una contiguità tra queste persone e i membri delle forze armate, sia fisica, cioè sono le stesse persone a volte, sia culturale. E in generale, cioè nel senso, in questi giorni si sono visti presenze di estremisti bianchi, di supremazia bianca, che vengono alle manifestazioni per provocare. Vengono le manifestazioni armate con i mitra. Ci sono stati casi di persone che hanno cercato di investire gente alle manifestazioni con le macchine o i pick-up truck o insomma i furgoni, che appunto è una cosa che, se vi ricordate, è successo qualche anno fa, che una compagna a Charlottesville è morta durante una manifestazione antifascista perché un suprematista bianco è andato con il camion dentro la folla. Cioè questa è una pratica che loro stanno replicando adesso in questi giorni. Queste persone non è che vengono, cioè non è che vengono fermate con le pistole in mano e gli vengono crivellate le macchine di colpi, come invece abbiamo visto succedere a dei ragazzi neri che erano presenti in manifestazione. Cioè queste persone vengono trattate con guanti bianchi. E questo è un po' il problema, cioè il problema è che il fatto che la polizia vede ancora questa cosa qui in questi termini. Sì, io questo non so se poi a voi vi interessa un po', diciamo, di storia, però in questo paese il primo atto antiterrorista e la Anti-Terrorist Task Force nasce nel 1870 per difendere i neri dal Ku Klux Klan. Per cui, diciamo, fin dalle sue origini, questo gruppo che adesso fa parte dell'FBI, cioè, si occupa di fare il tracking all'interno del paese di chi è questa gente, cosa fa, come mai riescono a infiltrarsi all'interno delle forze di polizia. È una cosa che per me dà un pochettino la cifra di, diciamo, come è trattato questo problema del suprematismo di fatto ariano all'interno di questo paese, il fatto che a ripetizione dal 2006 al 2011 l'FBI rilascia annualmente un report, un rapporto in cui praticamente fa la schedatura di tutti i gruppi di supremazia bianca e le loro connessioni con le forze di polizia nel paese, rilasciando anche delle descrizioni dettagliate di come funziona il reclutamento di forze dell'ordine. E diciamo, non è che gli FBI sono dei compagni, no? Per cui se loro rilasciano un rapporto del genere, io penserei anche che abbiano, anzi, un pochino sottostimato il problema. La cosa interessante è che nell'ultimo round cioè in cui viene pubblicato questo rapporto, all'epoca il segretario della sicurezza interna è questa Janet Napolitano, che fondamentalmente fa chiudere la task force dell'FBI dopo che l'esercito si lamenta formalmente con lei del fatto che all'interno del rapporto veniva detto che particolarmente suscettibili al reclutamento sono ex soldati licenziati dall'esercito per praticamente essere dei razzisti a dei livelli che all'interno cioè dell'esercito mandato in zone di guerra non sono accettabili e quindi vengono assunti dalla polizia e poi si uniscono a questi gruppi. Janet Napolitano nel 2015 viene messa a capo dell'Università della California e questa persona nel 2020 durante le proteste studentesche, gli scioperi che ci sono stati all'inizio di quest'anno, alla fine dell'anno scorso, da parte dei dottorandi, fa mandare l'esercito e la polizia contro gli studenti. Cioè, questo è il tipo di connessioni radicate che ci sono in questo paese, un posto dove si scopre un mese fa che mentre noi stavamo in sciopero c'è un gruppo comunque di 50 studenti davanti a un palazzo, la signora Napolitano ci ha fatto sorvegliare con la tecnologia militare, e in cui si scopre che i nostri colleghi neri e colleghi latinos sono stati tutti schedati dalla polizia, e in cui la polizia ha sedato delle manifestazioni studentesche neanche rivolte con la violenza in una maniera che cioè non si vedeva. Io penso in Italia alcune di queste cose si siano viste a Genova, ma dopo non, dopo no. Bene, scusate, se avete ancora tempo io manderei una canzone per smorzare un po' e poi si riparte. Dunque, ci sentiamo tra pochissimo con gli ospiti. Intanto Tom Waits. Da Blue Valentine. Truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Era Tom Waits con Christmas Card from Minneapolis. Siamo qua ancora con i nostri ospiti. I nostri ospiti da Santa Barbara, Belka e Strelka. Allora, torniamo a noi. Se mi sentite? Sì. Allora, abbiamo parlato, appunto, un po' contestualizzato. Andiamo, un'impressione, una domanda che mi è sorta perché vedendo un po' come si sono evolute le cose, si diceva sembra tutt'altro che un conflitto sulle questioni razziali. In particolare ho avuto modo di leggere oggi, purtroppo, fra l'altro devo dire, su un quotidiano italiano un articolo di Roberto Saviano che precisava sulla questione dei saccheggi. Lui faceva una grossa distinzione fra chi fa i saccheggi e chi non li fa. Di fatto però tutto questo sembra sono, insomma, caratteristiche tipiche di una protesta anticapitalista, mi verrebbe da dire, e quindi mi viene anche da chiedermi quanto i movimenti anticapitalisti siano all'interno di queste rivolte. Sì, allora riparto dalla domanda che c'era stata fatta prima e ti dico anche questa sull'anticapitalismo. Allora, io penso che diciamo, una grande motivazione per cui le cose si sono evolute nella maniera in cui si sono evolute è il fatto che noi comunque arriviamo da una pandemia. E cioè, per cui, diciamo, siamo in una situazione in cui, come forse avrete letto in Italia, non so se è arrivata la notizia, però qui disproporzionatamente le comunità nere e latine sono state impattate dal numero di morti creati dal coronavirus, in primis perché questo paese ha deciso fondamentalmente di gestire la cosa in una maniera che, boh, non lo so, cioè, penso che un gruppo di, boh, io dico sempre un gruppo di procioni avrebbe gestito le cose meglio, però cioè, se ne sono fondamentalmente lavati le mani, hanno lasciato la gente in mezzo alle strade a morire di coronavirus, di fame e di qualsiasi altra, di freddo, eccetera. Quindi noi arriviamo da 3 mesi in cui appunto i poveri e la gente che è stata definita lavoratori essenziali, ma sarebbe stato più corretto dire lavoratori sacrificabili, è stata data in pasto al coronavirus, con l'idea che appunto non si poteva chiudere il paese perché la più grande valore degli Stati Uniti d'America è l'economia, il mercato e la prosperità. E quindi dopo 3 mesi, quando si è arrivati alla situazione in cui per l'ennesima volta la polizia compie atti insensati di violenza contro gente non armata nelle strade, gli Stati Uniti, che erano una pentola a pressione, sono esplosi. Ci sono state delle reazioni interessanti anche da parte del governo a questo tipo di esplosione. Cioè, adesso non so se voi sapevate di questo, ma in California, come rappresaglia per i riot, il governatore della California e il sindaco della città di Los Angeles hanno fatto chiudere i centri per il testing del coronavirus gratuiti. Per cui, cioè, l'atto di rappresaglia è stata: ah, allora noi vi togliamo l'assistenza sanitaria, il poco che vi avevamo dato, dei centri che fanno 200 test al giorno. Cioè, parliamo di una cosa proprio ridicola. E per cui secondo me questo è un pochettino diciamo, il punto di partenza per questo tipo di riot. Non ti so dire se in un altro momento storico non ci sarebbero state, ci sarebbero state lo stesso, però diciamo anche questa distinzione tra chi in piazza fa i saccheggi e chi va a fare invece l'attivismo politico, cioè per me negli Stati Uniti un pochettino queste due categorie sono intrecciate. Ed è difficile da spiegare, però appunto secondo me arriviamo da una situazione di disperazione totale in cui la gente non ha assolutamente più nulla, vive per le strade. Io non credo alla favoletta che quelli che fanno i saccheggi sono infiltrati. Io penso che sia non un'ala del movimento, ma una conseguenza del modo in cui questi riot sono partiti, cioè molto spontaneo. Detto questo, mi chiedi se ci sono delle organizzazioni politiche o dei movimenti o dei gruppi che stanno facendo qualcosa. Sì, però io non so se mi spingerei a dire che questi gruppi hanno delle posizioni anticapitaliste, così come le intendiamo noi, nel senso di anticapitalismo. Ecco, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su chi conosci. Beh, no, io, cioè, è una domanda interessante. Secondo me, non è, io faccio fatica anch'io a capire esattamente qual è il ruolo dei saccheggi in queste proteste. Quello che mi sento dire è che anche da parte, cioè nel senso, fermo restando che nel senso pochi se ne frega di questi negozi, no? Cioè nel senso non penso che siano qualcosa che, di cui ci dobbiamo preoccupare particolarmente. Ci sono delle organizzazioni di sinistra che hanno, diciamo, delle posizioni più anticapitaliste. Mi viene da citare, per esempio, che io lo trovo molto interessante, questo gruppo che si chiama i Socialisti Democratici d'America, i DSA, che sono più o meno quelli che sostenevano Bernie Sanders da sinistra, tra virgolette, che non sono, cioè per gli standard europei non sono proprio degli estremisti di sinistra, cioè sono abbastanza moderati, nel senso, più o meno su, cioè, quello che potrebbe essere da noi una specie di rifondazione comunista, tra virgolette, cioè sono molto, però hanno, cioè, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Vengono accusati da alcuni di essere un gruppo comunque profondamente bianco come composizione politica, cioè di non avere poi davvero una base di sostegno nei quartieri più discriminati e più ghettizzati. Loro stanno sostenendo le proteste senza batter ciglio, cioè senza nessun dubbio, senza fare i distinguo, senza stare lì a dire ah no, però. Questo va bene, questo non va bene. Cioè, ci sono un po' di gruppi che hanno delle proposte un po' più radicali rispetto agli standard del paese che si stanno veramente buttando anima corpo in sostenere queste proteste. E per questo dico, secondo me ci sono delle componenti anticapitaliste che hanno anche assunto il fatto che questi riot, cioè, esistono, succedono e nel senso non è la roba di cui bisogna stare a parlare. Sì, tra l'altro io mi viene da pensare appunto, vabbè, ovviamente Saviano, vabbè, che ce lo diciamo a fare, però il parallelo con l'Italia chiaramente è molto azzardato, ovviamente, per una serie di ragioni, però è anche vero che nella situazione in cui ci troviamo dopo 3 mesi di pandemia, che ancora insomma siamo, non è finita, e in una situazione di crisi economica di cui iniziamo ora a vedere qualcosa, ma sappiamo già che sarà devastante, già in parte lo è. Insomma, chiaramente quando abbiamo visto, io parlo per me, però quando abbiamo visto quello che succedeva negli Stati Uniti, boh, io la prima reazione che ho avuto è stata, vabbè, ma ovvio, cioè, chiaro, e anzi. E quindi in realtà mi immagino che anche mettendomi facendo l'avvocato del diavolo, cioè, mi immagino che giornalisti, politologi vari, opinionisti moderati o che, cioè italiani, fanno quello che hanno sempre fatto in situazioni del genere, ovvero dividere, fare il solito giochetto del dividere buoni e cattivi, pacifisti, violenti, perché poi alla fine le loro boh, armi anche culturali e ideologiche, quelle sono, non, hanno ben poca capacità di analizzare la realtà nella sua complessità, quindi alla fine riducono tutto a questo. anche per un bel terrore, immagino che ovviamente non penso che qua qualcosa di simile non potrebbe succedere perché appunto sono imparagonabili le realtà, però insomma è chiaro che hanno tutti paura o non paura che avvenga un raio, una serie di rivolte pure qua e pure in Europa, quindi insomma penso che queste reazioni e letture qui europee siano poi alla fine insomma, frutto di questo, poi banalizzando, ma non credo neanche tanto. Sì, tra l'altro a questo proposito, secondo me è una cosa interessante che allora mi immagino i giornalisti italiani hanno convenientemente omesso, è che Black Lives Matter, che è appunto il gruppo comunque più grande coinvolto in questa manifestazione e che immagino non abbia bisogno di presentazioni neanche da voi, ha diciamo, rilasciato un commento stampa dicendo che sì, loro ufficialmente sono contrari al saccheggio e cose così, ma che loro non hanno intenzione di chiedere scusa di questo. Cioè, loro hanno preso la posizione di dire sì, certo, in una situazione, diciamo, ideale, noi vorremmo che questo tipo di mobilitazione fosse attorno a motivi puramente politici, però noi non abbiamo intenzione di giustificare o scusare la rabbia della nostra gente, della nostra comunità che cioè, viene ogni giorno calpestata comunque dai bianchi. E poi se posso aggiungere una cosa che cioè, è molto banale come commento quello che sto per dire, però secondo me va anche ricordato, cioè questa è una società incredibilmente materialista, nel senso in cui tu vivi il tuo status sociale in base alle cose che hai, cioè questo è vero in tutto il mondo, è vero anche in Italia, però qua è vero secondo me in un modo diverso, cioè le persone che conosciamo americane, cioè loro accumulano cose in casa in una maniera incredibile, cioè montagne di proprio di roba. E secondo me cioè, l'accesso ai beni, che poi non di lusso, perché comunque cioè, stiamo parlando di scarpe, stiamo parlando di zaini, stiamo parlando di. Cioè, è una forma di vivere il riscatto sociale. Cioè, il modo di dire io non ho mai potuto fare compere in questo. E tutte le zone saccheggiate non sono zone saccheggiate dei quartieri popolari, sono zone saccheggiate dello shopping bianco molto chic. Per cui nella via terza strada di Santa Monica, dove c'è, cioè, nel senso, anch'io mi farei problemi a fermarmi a comprare un caffè perché non è proprio economico. Cioè, nel senso, tutti questi negozi che sono poi negozi di catene. Cioè, nel senso, sono un pochino quello dove una serie di persone vengono escluse. E cioè, io non trovo strano che nel momento in cui c'è un po' di caos e nel momento in cui c'è questa possibilità di dire io ero escluso da questa cosa, cioè, adesso io sfascio la vetrina e mi prendo lo zaino, che è quello che volevo. Non è un ragionamento molto profondo, mi rendo conto, ed è un pochino anche un livello zero. Però, cioè, secondo me c'è questo, che non è tanto il distruggere il negozio per creare un danno all'azienda, no, cioè il riappropriarsi di cose che uno crede di averne diritto e che gli sono state negate in un certo senso. Ecco, un altro paio di cose che volevo chiederle. In primis, questi anche gesti plateali di alcuni esponenti della polizia, che sono addirittura inchinati ai manifestanti, a volte anche schierati insieme ai manifestanti. Secondo voi è un sentimento sincero questo qua oppure è uno specchietto per le allodole? Senti, allora, questa è una domanda che mi hanno fatto un po'. Ti dico anche che noi abbiamo ricevuto lettere, messaggi, comunicazioni da tutti quelli che potevano essere mandati, cioè il capo della polizia di Los Angeles, il capo della polizia dell'università, cioè tutti che ci hanno scritto per dirci abbiamo una storia molto brutta, abbiamo fatto dei passi in avanti, dobbiamo migliorare, dobbiamo imparare. Sono onesti, sono sinceri o no? Secondo me in certi casi sono anche tipo obbligati, cioè nel senso secondo me ci sono delle persone, in questo caso sono dei contesti dove cioè o accetti di riconoscere che queste proteste sono legittime oppure accetti il fatto che sparare sui neri senza motivo è legale, nel senso, cioè non è che ci siano molte altre alternative. Sono cose di facciata, nel senso perché in tanti posti, e secondo me questo magari in Italia non si è reso conto, le stesse città, le stesse polizie che hanno fatto queste specie di sceneggiate simboliche di condivisione della protesta, poi magari 2 ore dopo erano lì tirati i lacrimogeni. Per cui giustificando il fatto che i manifestanti pacifici vanno bene, invece gli altri no, però cioè, chiaramente i manifestanti erano pacifici finché loro non tiravano i lacrimogeni. A Los Angeles, per esempio, questa cosa è successa, cioè, nel senso ci sono stati dei casi dove la polizia ha provato a fare un pochino quelli che comunque Los Angeles sono tutti amici, perché comunque sono un po' così, e poi però Los Angeles ha una storia di violenza poliziesca anche recente. E roba su cui un pochino gli attivisti stanno iniziando a far presente che tutte queste scene di poliziotti che si inginocchiano diciamo, valgono quello che valgono, cioè nel senso, secondo me ti dico, io li vedo come in questo modo, come una forma di cioè che il messaggio che sta mandando il movimento è così forte che ufficialmente non lo puoi negare. Quindi ufficialmente ci devi accettare questa cosa qua, poi in pratica continui a fare le cose che facevi prima. E a me, scusate, mi ha ricordato una foto che è girata dopo che, penso, la polizia a Roma avesse sgomberato quella occupazione a scopo abitativo che era della comunità, adesso mi sfugge se era Etiopia o Eritrea, dove si vede il poliziotto che accarezza questa donna nera che cioè è stata sbattuta in strada da loro tipo 20 minuti prima che gli lanciavano lacrimogeni, manganellavano gente. Mi sembra un po' la stessa cosa e quindi no, anch'io non li trovo particolarmente sinceri e non penso che peraltro questo tipo di posizione cambierà in alcun modo l'atteggiamento della polizia nei confronti delle minoranze in questo paese. Ecco, giusto per precisione, secondo me ti riferivi allo sgombero del Baobab e la comunità somala di Roma, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, d'estate. L'ultima domanda che avrei, poi magari ce ne vengono altri 350.000, come diceva Pinky, è che gli Stati Uniti si avvicinano alle elezioni, perché a novembre vi sarà insomma, l'elezione di secondo mandato, quindi è chiaro, Trump sta cercando di sfruttare tutto questo a suo favore, cosa sta facendo invece il Partito Democratico? Guarda, ti rispondo con una battuta, cioè Biden ha avuto una settimana di tempo in cui non ha fatto commenti, per cui hanno avuto una settimana di tempo per preparargli le cose che dovevano dire e qual era la sua risposta politica da dare. Lui dopo una settimana ha detto, ma perché la gente invece di sparargli in pancia gli sparate sulle ginocchia? E questa cosa l'ha detta davvero. E diciamo, c'è. Secondo me il problema è anche questo, cioè che comunque con tutti i limiti, e io non voglio fare l'egemonia, cioè l'eulogia di Sanders, tutti i limiti della sua candidatura, Sanders aveva dietro un movimento e ha dietro un movimento di gente e nelle grandi città americane, cioè tipo Los Angeles, la maggioranza delle persone che hanno votato le primarie ha votato Sanders. Nel senso, io non so se questa cosa in Italia è chiara, ma c'è una differenza tra le città grandi e le zone rurali degli Stati Uniti che è abissale a livello di politica istituzionale, diciamo. Fino a quando iniziava la pandemia era più o meno prevedibile la rielezione di Trump, perché purtroppo, cioè, noi viviamo in una bolla appunto dove è difficile trovare qualcuno che sostenga Trump apertamente, però il resto del paese non è così. E la pandemia ha messo un pochino tutto, cioè ha squadrato un po' tutte le situazioni, perché comunque non è che proprio sia stata gestita in maniera esemplare e queste proteste non è chiaro, è molto difficile secondo me capire, cioè per me almeno, come si muovono i processi elettorali in questo paese. Cioè, sicuramente ha mobilitato la sinistra, ma appunto però c'è cioè, il candidato della sinistra, cioè sinistra tra virgolette, i candidati democratici è Biden, che davvero cioè, è la persona più poco interessante da sentire parlare che io abbia mai visto sulla faccia della terra. D'altra parte ha mobilitato, secondo me, culturalmente anche tutto questo sottofondo di estremisti di destra che non si aspettava, cioè che loro non vedevano l'ora ci fosse la guerra civile perché loro comunque vorrebbero risolvere questa cosa a modo loro. E per cui io non ho proprio idea. Pinky, hai qualcosa da aggiungere? ho ucciso con questa. Sì, con Ah, mi Biden. sa, sì, Bricobaldo mi sa che forse è svenuto, però no, io chiaramente poi mi verrebbe in mente la domandona da 1 miliardo di dollari, cioè la domanda della palla di vetro, cioè che cosa appunto prevedete per il futuro, quantomeno di questa rivolta, ma mi immagino che mi rispondiate che boh, che se lo sapevate, insomma, se aveste saputo magari avreste, non lo so, scommesso un sacco di soldi, sareste ricchi. Però effettivamente facendo anche i paralleli con altre rivolte, non soltanto fra l'altro negli Stati Uniti, a me, mentre parlavate, soprattutto quando vi riferivate ai saccheggi, il primo pensiero andava alle banlieue francesi, alle rivolte del 2005, anche qui contesti diversi, storia diversa, cultura diversa, però effettivamente tutti quei saccheggi e tutte quelle violenze che ci sono state, tristemente hanno portato a poco poi effettivamente, nel senso che poi dal giorno dopo fondamentalmente la situazione purtroppo è rimasta quella che era, e oltre a qualche soddisfazione che qualcuno si è riuscito a prendere, a un po' di frustrazione per un attimo andata via, però insomma in fondo purtroppo non, si è bloccato un po' tutto lì, e quindi chissà, cioè, mi rendo conto che sia veramente difficile dare un giudizio su questa cosa. Magari sicuramente avete qualche elemento in più di noi per azzardare qualcosa, ecco, forse. Guarda, sulle possibilità di cambiamento in questo paese io sono sempre molto scettica, magari sarò anche molto pessimista in maniera immotivata, però a me sembra che qui c'è uno scollamento tra, diciamo, il resto del mondo e le elite in qualsiasi campo, che è talmente radicato e talmente esteso, che io non. Cioè, queste elite che non hanno preso in considerazione, secondo me, i rapporti dell'FBI commissionati sotto l'amministrazione Bush, non prenderanno, secondo me, in considerazione la mobilitazione di, appunto, gli ultimi dei loro cittadini, comunque. E, cioè, qui, appunto, ci sono catene di passaggio di potere che si estendono in ogni campo, da generazioni, e che forse io ci ho messo un po' a vedere, per esempio, in università, no? Ma dopo qualche mese mi accorgo che nel mio dipartimento sono l'unica persona che non ha i genitori professori. E c'è una situazione del genere, è una situazione che si replica in tutti gli altri campi dove puoi avere un minimo di accesso alla comunicazione col pubblico, alla ricerca, alla capacità di fare legislature. Ci sono quelle che loro chiamano le legacy, e io non lo vedo una cosa facilmente modificabile, e non lo vedo una cosa che si è mai modificata in seguito agli altre rivolte che ci sono state in questo paese, quindi mi vedi molto scettica, però non lo so, magari invece io mi sto sbagliando clamorosamente, e me lo auguro sinceramente di starmi sbagliando, e questo tipo di mobilitazione dal basso cambierà qualcosa. Io invece farò il bastian contrario e farò l'ottimista. Farò l'ottimista però in un senso diverso, cioè io non so sul corto periodo, potrebbe anche andare molto male, potrebbe anche essere che queste rivolte finiranno in una svolta autoritaria e che la rielezione di Trump poi segni qualche anno veramente di periodi bui di questo paese, che comunque nel senso un pochino siamo sull'orlo di un regime autoritario di stampo fascista. Quello che io invece vorrei dire come cosa ottimista è che io invece vedo un sottofondo di attivismo molto attivo, molto giovane e con tanta voglia di fare le cose in tanti campi. È vero. C'è, secondo me, dei movimenti, per esempio a Los Angeles, sul diritto all'abitare estremamente vitali, che davanti alla pandemia non si sono lasciati disarmare, ma anzi hanno triplicato gli sforzi per per rispondere al momento in cui stiamo vivendo. Esistono dei movimenti dentro l'università che secondo me sono oggettivamente storici, perché non sono più legati alle mobilitazioni di un singolo campus, ma stanno creando delle reti nazionali di coordinamento tra vari gruppi delle varie università, pubbliche, private, costa est, costa ovest. Esiste un grande discorso sul ruolo dei sindacati, che in questo paese è molto limitato ed è limitato soltanto a certi settori, un pochino diciamo più anziani, e invece i giovani secondo me stanno un attimino riscoprendo un sindacalismo più militante, più di attivismo. Appunto, secondo me anche queste proteste, cioè, sono molto più, tra virgolette, politiche, organizzate e quindi in realtà anche, tra virgolette, pacifiche rispetto a quello che potevano essere. Cioè, secondo me siamo arrivati a queste proteste con dei coordinamenti, con delle strutture che hanno permesso di esprimere un pochino degli obiettivi, delle rivendicazioni rispetto semplicemente al caos. Cioè, qua non è il caos, qua secondo me c'è un conflitto politico in atto. E chiaramente, nel senso, davanti hanno una montagna, e davanti hanno quello che diceva la mia compagna qui, di un sistema di potere molto aristocratico in un certo senso, e secolare, e molto cioè una potenza militare enorme. Quindi non so, però io, ripeto, vedo con molto interesse una nuova generazione di attivisti che ha preso piede, e i giovani secondo me sono pronti a farci parte. È vero, mi hai fatto fare la parte della vecchia cariatide dell'università che non capisce i giovani. Va bene, comunque dai, speriamo che sia così, e speriamo insomma che questo possa andare avanti. Abbiamo avuto modo, fra l'altro, anche i microfoni di Radio Wombat, di toccare con mano quello che stava succedendo nella Bay Area. Soprattutto abbiamo rimandato un'assemblea del Rent Strike Italia, dove c'era una persona che invece portava la sua esperienza proprio di Los Angeles. E quindi insomma, comunque continueremo a seguire. Io direi che sono le 8, da voi probabilmente sono le 11 di mattina, però forse dobbiamo chiudere e passare un po' dall'altro, magari con l'augurio anche di risentirci per aggiornamenti e varie. Grazie mille per averci chiamati. Un abbraccio e un saluto. Ciao.